egli stesso s'accusa. Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto pure un linguaggio nel mondo non s'usa. Lasciamolo stare e non parliamo a voto, che così è a lui ciascun linguaggio, come il suo ad altrui che a nullo è noto. Facemmo adunque più lungo viaggio volti a sinistra, ed al trar d'un balestro trovammo l'altro assai più fiero e maggio. A cinger lui, qual che fosse il maestro, non so io dir, ma ei tenea succinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, d'una catena che tenea vinto dal collo in giù, sì che in su lo scoperto si avvolgeva infino al giro quinto. Questo superbo voll'esser sperto di sua potenza contra il sommo Giove, disse il mio duca, ond'egli ha cotal merto. Fialte a nome, e fece le gran pruove quando i giganti fer paura ai dei. Le braccia che menò giammai non muove, ed io a lui. S'esser puote, io vorrei che dello smisurato Briareo esperienza avesse agli occhi miei. Un dei rispose: tu vedrai Anteo presso di qui, che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni reo. Quel che tu vuoi veder più là è molto, ed è legato e fatto come questo, salvo che più feroce par nel volto. Non fu tremuoto già tanto rubesto che scotesse una torre così forte, come fi alte a scuotersi fu presto. Allor temetti più che mai la morte, e non v'era mestier più che la dotta, s'io non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avanti a lotta, e venimmo ad Anteo, che ben cinqualle senza la testa uscia fuor della grotta. O tu, che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda, quando Annibal coi suoi diede le spalle, recasti già 1000 leon per preda, e che, se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, ancor par che essi creda che avrebber vinto i figli della terra, mettine giuso e non ti vegna a schifo dove cocito la freddura serra. Non ci far ire a Tizio né a Tifo. Questi può dar di quel che qui si brama, però ti china e non torcer lo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama, che vive e lunga vita ancora aspetta, se innanzi tempo grazia a sé non chiama. Così disse il maestro, e quegli in fretta la man distese e prese il duca mio, ond'Ercole sentì già grande stretta. Virgilio, quando prendersi sentio, disse a me: fatti in qua, sì ch'io ti prenda. Poi fecesi con fascio e regli ed io. Qual pare riguardar la Carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì ch'ella in contrario penda? Tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare, e fu tal ora ch'io avrei voluto ir per altra strada. Ma lievemente al fondo che divora Lucifero con Giuda ci posò, né si chinato li fece dimora, e come albero in nave si levò. Fine del canto 31.